Terzo anello, ad alta voce. Il Conte di Montecristo, di Alexandre Dumas. Avevo 4 anni quando una sera fui svegliata da mia madre. Cominciò Aide. Eravamo nel palazzo di Giannina. Ella mi prese con i cuscini su cui dormivo e nell'aprirsi i miei occhi si incontrarono con i suoi pieni di lacrime. Mi portò fuori senza dire parola. Mi accorsi allora che scendevamo una larga scala. Davanti a noi scendevano, o piuttosto si precipitavano, tutte le altre donne di mio padre, con bauli, sacchetti, oggetti di ornamento, gioielli e borse d'oro. Dietro alle donne veniva una scorta di 20 di uomini, armati di lunghi fucili e di pistole. «Affrettiamoci!» disse dal fondo della galleria una voce che fece incurvare tutti come fa il vento in un campo di spighe. Era la voce di mio padre, che ci seguiva appoggiato al suo favorito Selim. «Mio padre», disse Aide rialzando la testa, «era quell'uomo illustre che l'Europa ha conosciuto sotto il nome di Ali Tebelè, pascià di Giannina, e davanti al quale la Turchia ha tremato». Albert, senza sapere perché, fremette nell'udire quelle parole pronunciate con un accento indefinibile di fermezza e di dignità. Gli pareva che qualcosa di cupo e spaventoso sfavillasse negli occhi della giovane donna quando, simile a una pizia che evoca uno spettro, ella risvegliò il ricordo di quella insanguinata figura che una terribile morte fece comparire gigantesca agli occhi dell'Europa contemporanea. Presto, continuò Aide, si sospese la marcia. Eravamo ai piedi della scala e sulla riva di un lago. Poco più sotto dondolava una barca. Dal luogo dove eravamo si vedeva innalzarsi nel mezzo del lago una massa nera. Era il padiglione verso il quale stavamo fuggendo e che mi sembrava molto lontano, forse a causa dell'oscurità. Scendemmo nella barca. Mi ricordo che i remi non facevano alcun rumore, fendendo l'acqua, ma la nostra barca filava come il vento. «Perché la barca va così veloce?» domandai a mia madre. «Zitta, figlia mia!» disse. «È perché fuggiamo!» Io non capii perché mio padre fuggisse. Lui, così potente. Mi fu detto poi che la guarnigione del castello di Giannina, stanca del lungo servizio... Qui Aide fermò il suo sguardo espressivo su Montecristo, i cui occhi non si staccarono più da quelli di lei. «Dicevate, signora», riprese Albert, che poneva grandissima attenzione a quel racconto, «che la guarnigione di Giannina, stanca del lungo servizio, aveva trattato con il generale Kurkid, inviato dal sultano per impadronirsi di mio padre. Fu allora che mio padre prese la risoluzione di ritirarsi, dopo aver inviato al sultano un ufficiale francese in cui aveva riposto tutta la sua fiducia nell'asilo che egli stesso si era preparato da lungo tempo e che chiamava Catafigeon, cioè rifugio. Vi ricordate il nome di quell'ufficiale, signora?» domandò Albert. Montecristo scambiò con la giovane donna uno sguardo rapido, di cui Morcerf non si accorse. «No», disse lei, «non me ne ricordo. Ma forse più tardi me ne ricorderò e lo dirò». Albert stava per pronunciare il nome di suo padre, allorché Montecristo alzò dolcemente il dito in segno di silenzio. Il giovane si ricordò del giuramento e tacque. Era verso quel padiglione che noi vogavamo. Un pianterreno ornato di arabeschi con terrazze lambite dall'acqua e un primo piano che guardava sul lago. Ecco tutto ciò che del palazzo era visibile. Ma sotto il pianterreno c'era un sotterraneo che si prolungava nell'isola. Una vasta caverna dove fummo condotti mia madre, io e le nostre donne, e dove erano accatastati, formando un solo mucchio, 60.000 borse e 200 barili. Nelle borse c'erano 25 milioni in oro e nei barili 30.000 libbre di polvere. Vicino a quei barili stava Selim, il favorito di mio padre. Vegliava giorno e notte con la lancia stretta in pugno, all'estremità della quale ardeva una miccia accesa. Aveva l'ordine di far saltare tutto: padiglione, guardie, pascià, donne e oro al primo segnale di mio padre. Mio padre una mattina ci fece chiamare. Continuò Ede. Lo trovammo assai calmo, ma più pallido del consueto. Abbi pazienza, Basilichi, disse. Oggi tutto sarà finito. Giungerà l'ordine del sultano e la mia sorte sarà decisa. Se avrò ottenuto la grazia, ritorneremo trionfanti a Giannina. Se le notizie saranno cattive, stanotte fuggiremo. Ma se non ci lasciano fuggire? Soggiunse mia madre. Ah, sta tranquilla, rispose Ali sorridendo. Selim e la sua lancia accesa rispondono di loro. Vorrebbero bene che io morissi, ma non a condizione di morire con me. Mia madre non rispose che con sospiri a quelle parole. Una sola luce brillava nella caverna, la miccia di Selim. Non temere, Basilichi, disse Selim con voce soave e ad un tempo fiera. Se non portano la pace, daremo loro la morte. Selim, qual è l'ordine del padrone? Chiese a bassa voce mia madre. Se egli mi invia il suo pugnale, è segno che il sultano gli rifiuta la grazia e io do fuoco. Se mi invia il suo anello, è segno che il sultano lo perdona e io tolgo la miccia dalla polveriera. Ad un tratto mio padre fece un gesto così rapido che io ebbi una gran paura. Quindi, senza staccare gli occhi dal punto che stava fissando, chiese il cannocchiale. Mia madre glielo porse, più pallida del muro contro cui stava appoggiata. Vidi la mano di mio padre tremare. Una barca. Due. Tre. Mormorò mio padre. Quattro. E si alzò, brandendo le sue armi e versando, me ne ricordo, della polvere nell'innesco delle sue pistole. Basilichi, disse a mia madre con visibile tremito. Ecco l'istante che decide di noi. Fra mezz'ora avremo la risposta del sultano. E ritirati nel sotterraneo con Aide. Io non voglio lasciarvi, disse Basilichi. Se voi morirete, mio signore, voglio morire con voi. Andate da Selim, gridò mio padre. Addio, signore, mormorò mia madre, ubbidiente e rassegnata come all'avvicinarsi della morte. Portate con voi Basilichi, disse mio padre ai suoi soldati. Ma io, che ero stata dimenticata, corsi da lui tendendogli le mani. mi vide e, chinandosi su di me, premette la mia fronte contro le sue labbra. Oh, quel bacio fu l'ultimo ed è sempre impresso sulla mia fronte. Aide, tutta immersa nei suoi terribili ricordi, era divenuta per un momento silenziosa. «Continua, figlia mia», disse il conte. Aide rialzò la fronte e, come se le parole di Montecristo l'avessero risvegliata da un sogno, riprese. Erano le 4 del pomeriggio, ma benché fosse una giornata chiara e luminosa, noi stavamo immersi nell'oscurità del sotterraneo. Ad un tratto sentimmo come grandi grida. Ascoltammo. Erano grida di gioia. Il nome del francese che era stato inviato a Costantinopoli e che giava ripetutamente dai nostri soldati, certamente portava la risposta della sublime porta, e la risposta era propizia. «E non ricordate il suo nome?» disse Morcerf, pronto a soccorrere la memoria della narratrice. Montecristo le fece un segno. «Non lo ricordo», rispose Heidi. Il rumore raddoppiava. Si sentivano passi più vicini. Qualcuno scendeva la scala del sotterraneo. Selim preparò la sua lancia. Ben presto, nell'incerto crepuscolo formato da una debole luce che penetrava fino a noi, comparve un'ombra. «Chi sei tu?» gridò Selim. «Chiunque tu sia, non fare un passo di più. Gloria al sultano!» disse l'ombra. «È accordata la grazia al Pascià Ali, e non solo a salva la vita, ma gli vengono resi i suoi beni e il suo patrimonio!» Mia madre mandò un grido di gioia e mi strinse al cuore. Allora i nostri occhi, abituati all'oscurità, riconobbero l'inviato del sultano. Era un amico. «In nome di chi vieni tu?» disse Selim. «In nome del nostro padrone, Ali Tebelin. Se vieni in nome di Ali, sai che cosa mi devi consegnare?» «Sì», rispose l'inviato. «Ti porto il suo anello». E nello stesso tempo alzò la mano al di sopra della testa. «Non vedo ciò che mi porti», disse Selim. «Deponi nel posto dove sei, sotto quel raggio di luce, l'oggetto che mi mostri e ritirati fino a che io non l'abbia visto». «Ecco», disse il messaggero. E si ritirò dopo aver deposto il segno di riconoscimento nel luogo indicato. Selim, tenendo sempre in mano lo stoppino acceso, s'accostò all'apertura e, chinatosi sotto il raggio di luce, raccolse il segnale. «L'anello del mio signore», disse egli baciandolo. «Sta bene». E rovesciando lo stopino a terra, vi pestò sopra il piede e lo spense. Il messaggero allora mandò un grido e batté le mani. A quel segnale accorsero 4 soldati del generale Kurkid e Selim cadde, trapassato da 5 colpi di pugnale. Ognuno aveva inferto il suo. Thank you. Mia madre, continuò Aide, mi prese nelle sue braccia e, agile, correndo per anditi noti soltanto a noi, giunse fino a una scala segreta del padiglione, nel quale regnava uno spaventoso tumulto. Le stanze del pian terreno erano gremite di soldati di Kurkid, vale a dire di nostri nemici, e mentre mia madre stava per spingere la porticina, udimmo risuonare, terribile e minacciosa, la voce di mio padre. Mia madre guardò dalle fessure di un tavolato. C'era per caso un'apertura davanti a me. E anche io guardai. «Che cosa volete?» diceva mio padre a persone che tenevano in mano una carta con caratteri d'oro. «Che cosa vogliamo?» rispondeva una voce. «Comunicarti la volontà di Sua Altezza. Vedi quest'ordine?» «Lo vedo», disse mio padre. «Ebbene leggi, chiede la tua testa!» Mio padre ebbe uno scoppio di riso feroce, peggiore di una minaccia. Non aveva ancora terminato che dalla sua pistola erano partiti due colpi che uccisero due uomini. «Selim! Selim, guardiano del fuoco!» gridò. «Fa il tuo dovere!» «Selim è morto!» rispose una voce dall'accento francese che sembrava uscire dalle profondità del padiglione. «E tu, signore Ali, sei perduto!» Nello stesso tempo si udì una sorda detonazione e l'impiantito saltò in schegge tutto intorno a mio padre. I soldati sparavano attraverso il pavimento di legno. 3 o 4 soldati caddero feriti, colpiti dal basso in alto. 20 colpi di moschetto partirono da quell'apertura e la fiamma, uscendo come dal cratere di un vulcano, si appiccò alla tappezzeria. In mezzo a quello spaventevole tumulto, in mezzo a quelle grida terribili, 2 colpi più distinti degli altri, 2 grida più straziate delle altre mi agghiacciarono di terrore. Quei 2 colpi avevano ferito mortalmente mio padre. Quelle grida erano le sue. Nello stesso tempo il pavimento scricchiolò. Mio padre cadde sopra un ginocchio e subito 20 braccia si tesero sopra di lui, armate di sciabole, di pistole, di pugnali. 20 colpi trapassarono contemporaneamente un solo uomo. E mio padre scomparve in un turbine di fuoco attizzato da quei demoni ruggenti, come se l'inferno si fosse spalancato sotto i suoi piedi. Io mi sentii rotolare a terra. Era mia madre, che cadeva svenuta. Quando mia madre recuperò i sensi, eravamo davanti al generale. «Uccidetemi», disse lei, «ma rispettate la vedova di Ali». «Non a me tu devi rivolgerti», disse Kurkid. «E a chi, dunque?» «Al tuo nuovo signore». «Quale?» «Eccolo». E Kurkid ci mostrò uno di quelli che avevano maggiormente contribuito alla morte di mio padre. «Allora?» domandò Albert. «Voi diveniste schiava di quest'uomo?» «No», rispose Aide. «Non osò tenerci. Ci vendette a dei mercanti di schiavi che andavano a Costantinopoli». Attraversammo la Grecia e giungemmo, morenti, alla porta imperiale ingombra di curiosi che si scostavano per lasciarci passare. Quando ad un tratto mia madre seguì con gli occhi la direzione dei loro sguardi e, gettato un grido, cadde, additando una testa appesa sopra quella porta. Sotto quella testa erano scritte queste parole: «Ecco la testa di Ali Tebelin, pascià di Giannina». Cercai, piangendo, di rialzare mia madre. Era morta. Fui portata al bazar. Un ricco armeno mi comperò, mi fece istruire, mi procurò dei maestri e quando ebbi 13 anni mi vendetti al sultano Mahmud. «Dal quale», disse Montecristo, «io la riscattai come vi dissi, Albert. Tu sei buono, tu sei grande, mio signore», disse Aide baciando la mano a Montecristo. «E io sono ben felice di appartenerti». Albert rimase stordito. «Terminate di bere il caffè», gli disse il conte. «La storia è finita». Thank you. Beauchamp era in uno studio scuro e polveroso, come sono, fin dalla loro fondazione, tutti gli uffici dei giornali. Nel sentirsi annunciare Albert de Morcerf, si fece ripetere due volte il nome, poi, non convinto ancora, gridò: «Entrate!» Albert comparve. «Beauchamp», disse, «vengo a parlarvi del vostro giornale». «Voi, Morcerf? Che desiderate?» «Desidero una rettifica». «Voi? Una rettifica? A proposito di che, Albert? Spiegatevi». «Una rettifica di una notizia che offende l'onore di un membro della mia famiglia». «Or su, dunque», disse Beauchamp sorpreso. «Che notizia? Ciò non può essere». «La notizia che avete ricevuto da Giannina». «Da Giannina?» «Sì, da Giannina. Ma ignorate davvero il motivo che mi conduce da voi?» «Sul mio onore». «Baptiste, un giornale di ieri!» gridò Beauchamp. «È inutile, vi porto il mio». Beauchamp lesse bisbigliando. «Ci scrivono da Giannina. È giunta a nostra conoscenza un fatto finora ignorato o perlomeno inedito. Le fortezze che difendevano la città furono vendute ai turchi da un ufficiale francese nel quale il visir Ali Tebelin aveva riposto tutta la sua fiducia e si chiamava Fernand». «Voi comprenderete che il fatto è grave», disse Morcerf. «Questo ufficiale è dunque vostro parente?» domandò il giornalista. «Sì», disse Albert arrossendo. «Che cosa volete che faccia per compiacervi?» disse Beauchamp. «Ebbene, lo vedete», disse Albert con asprezza. «Nel vostro giornale si insulta uno della mia famiglia e io voglio una ritrattazione. Permettetemi di dirvi che non siete molto diplomatico, mio caro Visconte. Ma orsù, non guastiamoci almeno per ora. Voi siete inquieto, irritato e offeso. Dite, chi è questo parente che si chiama Fernand?» «È semplicemente mio padre», disse Albert. «Il signor Fernand Mondego, conte di Morcerf, vecchio militare che ha visto 20 campi di battaglia e del quale si vogliono coprire di fango le nobili cicatrici». «Vostro padre», disse Beauchamp. «Ah, beh, allora è tutt'altro affare. Capisco la vostra indignazione, mio caro Albert». E rilesse la notizia, soppesando questa volta ciascuna parola. «Ma da cosa supponete?» domandò Beauchamp. «Che questo Fernando il giornale sia vostro padre?» «Da nulla, è evidente. Ma altri lo affermeranno. E perciò voglio che il fatto sia smentito». «Alla parola voglio». Beauchamp alzò gli occhi su Morcerf e, abbassandoli quasi subito, rimase un istante pensieroso. «Voi smentirete questo fatto, non è vero, Beauchamp?» ripeté Morcerf con collera crescente, quantunque sempre controllata. «Sì. La cosa vale la pena d'essere chiarita e io la chiarirò». «Ma che avete da chiarire, signore?» disse Albert superando i limiti. «Se non credete che sia mio padre, ditelo subito. Se invece credete che sia lui, ditemi la ragione. Freno le minacce, vi prego, signor Albert Mondego, visconte di Morcerf. Io non ne tollero dai miei nemici e ancora meno dagli amici». «Desiderate che io smentisca la notizia del generale Fernand? Notizia alla quale, non ho, vi assicuro, avuto alcuna parte?» «Sì, lo voglio», disse Albert, la cui testa non era più in grado di ragionare. «Altrimenti ci batteremo?» continuò Beauchamp con la medesima calma. «Sì», rispose Albert alzando la voce. «Ebbene», disse Beauchamp, «ecco la mia risposta, mio caro signore. Concedetemi 3 settimane al termine delle quali verrò a dirvi: sì, la notizia è falsa e io la smentisco. Oppure, sì, la notizia è vera e io sfodero la spada. O afferro le pistole. A vostra scelta». «Sia. Fra 3 settimane. Lo concedo», disse Morcerf. Thank you.